Beh, questo pezzo era fighissimo, era bellissimo. Rocky 4, quindi già mi immagino due pugili. Eye of the Tiger, Survivor, che gran pezzo, che uomini veri sul ring che si sfidavano. E allora così voglio introdurre una sfida che avevamo Adesso ho capito. Hai capito perché? Cosa c'entrava sta canzone. Perché la scorsa settimana abbiamo sorriso annunciando una sfida. Allora, Enrico Pagliarini che è in studio con noi. Buongiorno, ciao Enrico. Ciao. E abbiamo in collegamento, come sempre a quest'ora, il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide. Ciao, buongiorno. Io invece trasmetto da un ristorante. Ah, beh, giustamente. Fantastico. Però vorrei subito dire una cosa. Adesso, questa figura del ring, io la rifiuto e la respingo in tutti i modi. Io, se vedo Davide Paolini, gli stringo la mano come prima cosa. No, ma certo. Lo abbraccio. Ma anch'io, grande paglia. Se non altro, siamo quasi conterranei. E quindi poi amiamo il lambrusco. Come possiamo il lambrusco? Sul lambrusco siamo perfettamente d'accordo. Allora, non abbiamo bisogno di ricorrere alle tecnologie, credo. Ecco, tra il serio e il faceto, io ho lanciato questa sfida perché tutti noi ci troviamo talvolta a voler scegliere un ristorante, un albergo. Un tempo c'erano gli esperti, c'erano gli amici, adesso c'è anche la tecnologia. E quindi abbiamo messo a confronto il nostro gastronauta e il nostro esperto di tecnologia, anche perché con loro confronto cerchiamo di capire come informarci meglio. Allora, io partirei con Davide Paolini. Davide, qual è in generale il consiglio che tu dai per avere il consiglio giusto per quanto riguarda un ristorante? Di chi bisogna fidarsi? Ma guarda, innanzitutto cioè andiamo anche per fasce, perché ristorante vuol dire tutto, vuol dire niente, nel senso c'è anche un range di spesa tra i vari ristoranti, ci sono delle scelte anche oggigiorno, poiché esistono le tribù alimentari. Ci sono i vegani, ci sono i vegetariani, quindi è molto difficile, bisogna partire da questo. Comunque io per entrare subito in lotta dico, guarda, ricorrete a tutto meno che a TripAdvisor. Ah, così, come sì. Si suol dire in gergo calcistico o anche su Twitter, la tocca piano. Perché non TripAdvisor? Ma perché per esperienze personali, per due trasmissioni che ho fatto dove ho riscontrato 30, 40, 50 ristoratori che hanno avuto delazioni, hanno avuto truffe, sono stati ricattati, hanno pagato per avere delle recensioni. Io ho avuto delle ritorsioni dopo le mie trasmissioni in cui mi sono trovato 60 recensioni da Davide Paolini il Sole 24 Ore, diciamo qualche ora dopo la mia trasmissione, di cui ristoranti dove non ero mai stato. E quindi, e poi non solo, diciamo che ci sono state molte riviste che hanno segnalato ristoranti che non esistono, creati ad hoc per prendere in giro chi va su TripAdvisor, secondo anche di molti ristoranti che sono chiusi e ancora risultano su TripAdvisor. Quindi sicuramente delle indicazioni che non sono giuste. Dico subito, attenzione, io non faccio guide, quindi qualcuno che immediatamente dice questo lo fa perché certo, fa guide per la concorrenza. Io non faccio più guide da tanti anni, punto secondo, quindi non gioco per nessuno. E di conseguenza credo di essere chiaro proprio per esperienze mie personali su questo, non solo per dei confronti che ho fatto tra locali dove sono stato e poi sono andato a vedere recensioni che ho visto su TripAdvisor, alcuni che erano descritti di cose che non esistevano, piatti che non c'erano, e quindi per questo io dico attenzione. Non dico che le guide scritte siano affidabili, tutte affidabili, anche lì ci sono quelle affidabili e non affidabili, ci sono i giornalisti che fanno guide che sanno certo cosa mangiano e quelli che non sanno cosa mangiano. Quindi diciamo. Però Davide, che intanto facciamo rispondere l'esperto di tecnologia, certo. Enrico, le posizioni di Davide Paolini su TripAdvisor, che poi si possono applicare anche ad altri siti di recensioni. Ma allora, sicuramente TripAdvisor, visto che non devi essere, anche perché non ci sarebbe modo per tracciarlo, non devi essere andato nel ristorante o non devi essere stato nell'albergo, sicuramente tra i vari sistemi per dare un giudizio non è tra i più affidabili. Anche se TripAdvisor dice che ha persone che controllano, è verissimo, che il tema delle truffe, delle recensioni pagate è presente. Quindi verissimo, ci sono tanti altri sistemi che prevedono invece che tu abbia fatto l'esperienza diretta, ad esempio Booking, Airbnb prevedono che tu abbia soggiorno tipicamente negli alberghi dove c'è modalità, c'è modo di tracciarti. Certo. E quindi ecco, in quel caso, perché allargherei un po' il quadro a tutti i sistemi che fanno, che propongono recensioni, ecco, sul caso TripAdvisor, ma comunque in generale, direi che è un buon modo per ritenere il luogo affidabile o comunque coerente con la maggior parte delle recensioni è il numero delle recensioni. Ovviamente se ci sono poche decine di recensioni andrei coi piedi di piombo, leggerei attentamente le recensioni. Se invece noi capitiamo in una città, apriamo il nostro smartphone, e qui poi il tema dello smartphone è un tema importante, certo. E un ristorante ha centinaia o migliaia di giudizi, diciamo che intervenire con migliaia di giudizi falsi è molto complicato. Quindi bisogna anche andare a vedere il numero delle recensioni. Ah certo, non c'è dubbio. Il numero di recensioni, che siano positive o che siano negative. Certo. Perché ci sono anche dei ristoranti che sono molto bassi in classifica, che hanno molte recensioni negative, ci danno un indizio anche su quello. Quindi sicuramente il numero delle recensioni è molto importante. Poi alcune istruzioni per l'uso. Bisognerebbe avere un po' di tempo per leggere le recensioni, perché da lì capiamo anche un po' di cose. Diciamo che le recensioni false si scoprono anche abbastanza velocemente. Filtrare le recensioni, mi spiego, per nazionalità. Il giudizio che dà un italiano o un tedesco su un ristorante è diverso. Quindi io tendenzialmente, okay, quando controllo e guardo sulle applicazioni o sui siti, filtro per nazionalità. Mi fido più degli italiani perché abbiamo delle abitudini e dei gusti più simili rispetto ad altre nazioni. Poi filtrare anche per genere, cioè devi andare con la famiglia, cerca le recensioni delle famiglie. Vai da solo, cerca le recensioni dei single. Beh, insomma, bisogna essere particolarmente bravi. Non c'è dubbio. Davide? Ma no, secondo me in questa maniera, la maniera che propone Paglia, sicuramente questa è una maniera interessante, però bisogna essere scientifici. Allora, chi legge di solito TripAdvisor non è assolutamente scientifico con tutte queste precauzioni, ma va direttamente e si lascia influenzare da quello che trova scritto. Devo dire però, devo ammettere una cosa su quello che ha detto, che sugli alberghi è molto più facile. Molto più facile perché, cioè, all'albergo lasci la carta d'identità, lasci il passaporto, lasci ad altro, quindi sei più evidentemente rintracciabile. E quindi forse sugli alberghi può essere molto, ma molto più sicuro. Sui ristoranti io rimango della mia idea che si può essere scientifici fin quanto si vuole, e innanzitutto io leggo delle recensioni perché mi diverto e le guardo. E vedo molte volte che c'è gente che sbaglia l'entranus con l'entrecotte, quindi devo dire effettivamente non sono esattamente la stessa cosa. Infatti il nostro Dario Ricci ha appena detto che in Francia si stava dedicando all'entrecotte, sottolineo, ecco, ha detto entrecotte, sì. E invece ci sono anche che si sbagliano su questa maniera. No, il problema è che molti, io ritengo che Internet e il web sia uno strumento di democrazia, per carità, tutti possono dire la loro, però molte volte leggo delle recensioni su TripAdvisor di alcuni ristoranti che magari cercano di fare, non so, di recensire un piatto, cioè manca completamente, non dico la conoscenza scientifica e tecnica, ma un minimo di base che è quello del gusto. Cioè questo è il fatto fondamentale, che molti fanno recensioni perché vogliono vedersi pubblicati e vogliono leggersi. Questa è la verità. Come ci sono molti blogger che sono straordinari, bravissimi, ce ne sono tanti altri che per il gusto di vedere il loro giudizio su qualcosa sparano delle sciocchezze immense. Quindi benissimo, continui il web, continui l'internet, perché è uno strumento di democrazia. Però io credo che molte volte porti sulla strada sbagliata e porti molta gente ad andare in certi ristoranti che sicuramente non ne valgono la pena. Sì. Beh, insomma, qualche fregatura si può sempre prendere. Sì, sì, sì. Enrico, le prendo anch'io le fregature. Sì, sì, statisticamente è vita mia, io proprio perché io vado a occhio. Sì, io proprio per i motivi, allora, devo dire che In Italia mi fido molto più delle guide. Quando vado all'estero, un po' perché magari non sono preparato, mi fido molto di più delle applicazioni. Devo dire che all'estero mi fido più di Yelp che di TripAdvisor. Ah, ecco, Yelp. Qualcuno ci sta citando anche altre applicazioni. Ascoltatore ci sta citando Last Menu, che dice recensioni reali che possono rilasciare chi ha effettivamente consumato al ristorante. E qualcuno cita una che io uso molto, che è un'app e non è una guida, che è Foursquare. Che io uso abbastanza, perché comunque mi dice quello che c'è attorno, perché mi consente la geolocalizzazione. Devo dire la verità, la utilizzo soprattutto non tanto se devo scegliere un gran ristorante, ma se sono in un posto e dico qua attorno cosa c'è. Infatti, allora, il problema è qua, è questo. Perché questi servizi e queste applicazioni vincono in termini di numeri? Allora, primo perché sono spesso mobile, quindi ce le troviamo sul nostro smartphone molto facilmente, sono quindi sempre disponibili, sono gratis, vanno bene anche per le porzioni nel bene nel male, mi sembra che intenda dire. Sì, Davide. Però gratis è importante questo aspetto. Ah, non c'è dubbio. Però è anche vero che se non funziona, io guardo sul grande numero, allora, se proprio non funzionassero, ci sarebbe una disaffezione dei consumatori che in poco tempo poi li abbandonerebbero. E qui però si apre un capitolo. Allora, io sul mio smartphone ho delle guide che mi sono scaricato, eccetera. Però è anche vero che soprattutto sul lato app questi servizi hanno delle belle applicazioni, hanno dei bei servizi che funzionano molto bene, e invece gli editori che fanno le guide, che io pago senza problemi, e alcune guide costano anche abbastanza. Noi su internet ci siamo abituati all'1,99, al 2,99, invece sono delle guide che costano 7, 10, 15, anche 20 euro, sì, anche di più. Io ce le ho, le pago e sono contento e spesso le utilizzo. Però devo dire che non ci siamo, cioè faccio un appello agli editori: diventate più bravi, perché dovete prestare molta più attenzione all'applicazione mobile che al libro con la bella copertina e la bella grafica, perché Enrico, è più importante. Facciamo una pausa velocissima, perché voglio chiederti proprio una cosa anche sulle guide, e poi voglio tornare poi anche da Davide Paoli. Poi faccio un esempio di quello che ho detto, perché secondo me sono ancora allora un po'... una brevissima pausa, rimanete con noi, ancora la sfida sui consigli, a tra poco. Beh, dopo l'Eye of the Tiger di Rocky 4 passiamo al Fight Club con i Pixies, perché ci stiamo sfidando, o meglio si stanno un po' sfidando il nostro gastronauta Davide Paolini e il nostro esperto di tecnologia Enrico Pagliarini. Enrico che è qui con me in studio, Davide che giustamente è al ristorante, sta facendo il suo lavoro. Io torno a dare la parola a Enrico, perché stava concludendo un discorso sulle guide. Sì, un appello, perché ripeto, le guide sono importanti e spesso sono molto, molto affidabili. Tra l'altro descrivono i ristoranti in alcuni casi in modo anche molto poetico. Io giuro, c'è un ristorante di Modena che è stato recensito da una guida e ti viene un po' una lacrima, perché è una descrizione molto appassionata. Però devo dire che gli editori bisogna che si diano una bella svegliata, perché ad esempio io ho comprato una guida con l'app sul mio smartphone, è uscita la versione, l'edizione 2016, e non è che l'app mi dice: guarda, è uscita la versione 2016, vuoi aggiornare la tua attuale applicazione, magari ti offriamo l'aggiornamento con uno sconto perché sei già nostro cliente. No, devo comprare un'altra guida. Cioè, si ripete il modello dell'offline. Cioè, compro la guida di carta. Invece, se io ho già comprato la guida bisogna un Bianchi, po' adattarsi. Rossi, Paolini. Esatto. No, questo lo dico perché poi vincono questi servizi. Perché sono disponibili in modo molto facile, sono fruibili molto, molto bene sul mobile. E certo, ricordiamoci che noi tutti i giorni guardiamo per 80 volte il nostro smartphone, e se una cosa funziona molto bene sullo smartphone, vince. Quindi non sempre ciò che è meglio è meglio. Non sempre ciò che è meglio. Cioè, uno potrebbe dire le guide forse sono meglio, ma visto che stanno perdendo attualmente la sfida del mobile, alla fine perdono, e quindi questo è un problema. Allora, intanto c'è un tuo concittadino, Mario da Modena, che ci scrive al 349-238-6666. Da ristoratore, per esperienza diretta, concordo al 100% con Paolini. Chi pubblica le guide scritte almeno ci mette la faccia. E questo effettivamente... Sì, vabbè, però... Davide, allora... Volevo intervenire su quello che aveva detto Pagliarini. Sì. Il problema è che sia le guide scritte che le guide tecnologiche hanno un limite, forse più quelle tecnologiche, che nei ristoranti bisogna andarci, mangiare e capire. Il problema delle guide tecnologiche, ma anche in parte di quelle scritte, è che questo non avviene, cioè quando c'è un cambiamento le tecnologiche lo registrano, diciamo, d'ufficio, ma non sanno se quel cuoco è cambiato cosa fa di diverso rispetto al precedente, quindi saranno sempre imperfetti. E allora io preferisco una guida romantica che mi spiega e mi fa piangere su quel piatto, su quel ristorante, di una guida settica di cui assolutamente non mi dà nessuna emozione. E se tu permetti, Marta, io faccio un appello. Il gastronauta che è in voi, fatelo venire fuori, andatele a scoprire per cavoli vostri, uscite dalle autostrade, entrate nelle strade provinciali, provate, scoprirete. Se scoprite un grande ristorante, avrete un'emozione molto più forte di quella che trovate in un freddo computer o in un freddo iPad. Quindi il bello della sorpresa, che credo trovi d'accordo anche il nostro Enrico Pagliarini. Allora, su questo sì, aggiungo una cosa, perché volevo dirlo già la settimana scorsa quando Davide ha detto: a volte io esco dall'autostrada, vado a caso. Allora, effettivamente uno dei grossi problemi della rete internet è il movimento a pecora, cioè quando nasce un fenomeno, oppure ad esempio su alcuni anche luoghi fisici cominciano a rincorrersi recensioni, poi si innesca un meccanismo per cui tutti vanno verso una stessa direzione. Allora, il fenomeno, qui potremmo estendere il pensiero alla personalizzazione dei servizi, le pubblicità che diventano sempre più personalizzate, cioè la casualità su internet si sta un po' perdendo. Quindi a volte, ma richiede molta disciplina, e purtroppo capita poco, bisognerebbe spegnere questi strumenti e andare un po' a caso. Detto questo, però, ripeto, visto che la maggior parte delle persone utilizza questi strumenti per tanto tempo durante la giornata, io penso che il mondo dei ristoratori dovrebbe, invece che continuare a denigrare questi strumenti, capirli, adattarsi e magari proporre qualcosa di alternativo. Se no succede quello che è successo per gli alberghi. Noi abbiamo una nazione piena di alberghi, uh-huh, e la prenotazione di questi alberghi avviene attraverso piattaforme americane, che è una cosa assurda, ecco, anche perché una parte del reddito va a finire negli Stati Uniti. Io adoro gli Stati Uniti. Ma fanno benissimo i nostri ristoratori a essere nemici, perché dentro c'è di tutto. Ma si perde, però. Lo ripeto, c'è la delazione, ci sono le recensioni comprate, hanno ragione, ci sono stati alcuni ristoratori che non dico che sono stati rovinati, ma hanno avuto dei problemi grossissimi dalle delazioni che hanno avuto dentro. E quindi è anche giusto che abbiano queste ribellioni, oppure di falsità che sono state scritte, oppure ristoranti inventati completamente, portati alle stelle, che non esistevano. Come fanno a essere favorevoli? Certo, sono favorevoli i ristoranti che assolutamente non valgono un fico secco. Questi sì, perché basta una recensione per farli conoscere, e questi sono contenti, sarà sempre un esercito dei contenti questi. Però il problema riguarda la grande massa della ristorazione. Come dicevo, io sugli alberghi non so, perché non ho tale competenza per descrivere. Io anche qui vado a naso, per cui molte volte intoppo in ciofeche, altre volte invece ci azzecco. Però sicuramente quando ci azzecco, e sicuramente sono molto più contento che me l'abbia fatto scoprire. Forse anche questo è stato il mio mestiere. E la cosa che mi fa più felice è che alla sera, verso le 7:30, 8, ricevo 20 telegramme da amici in giro per l'Italia, per il mondo, che mi chiedono dove vado. E questo vuol dire che bisognerebbe sempre avere un gastronauta per amico, anche noi lo chiediamo. Questo è imbattibile, non c'è dubbio, così come io chiedo i cinema, cioè i film a te, e non è che mi fido di... Allora, intanto qualche messaggio al 349-238-6666. Un ascoltatore ci segnala Fan City, del quale abbiamo già parlato, vero, sì, Enrico? Sì, non sì. Solo ristoranti, però sì, un altro ascoltatore, la vecchia Guide du Routard, eccellente, quasi sempre veritiera, mi ricordo le mie vecchie vacanze tanti anni fa in Francia, la Guide du Routard. Poi sì, era Rocky 3, non Rocky 4, ma io ho segnato Rocky 3, ho detto Rocky 4, perché io ho il mio rapporto fantastico con i numeri, è immancabile. Ho un'ultima domanda, Enrico. Ristoranti in Italia e ristoranti all'estero, è la stessa cosa come approccio con la tecnologia, visto che tu hai detto ristoranti italiani? Secondo me all'estero, dove c'è un utilizzo della rete più elevato, nei paesi dove c'è un utilizzo della rete più elevato, ricollegandomi a quello che dicevo prima, che se un ristorante in centro a Londra ha 5.000 recensioni, io mi fido, e effettivamente quando mi sono basato sul numero di recensioni difficilmente ho preso una fregatura. Ecco, in quel caso maggiore è il numero di recensioni, e in alcuni paesi ci sono tantissime persone che sono online più che in Italia, io direi che l'affidabilità è ancora più elevata. Però dico in un altro modo quello che volevo dire prima. Adeguarsi alle tecnologie per i ristoratori, visto che stiamo parlando ampiamente di questo tema, non è detto che corrisponda ad adeguarsi a quello che c'è oggi. Magari tutti insieme si crea una piattaforma alternativa molto più controllata. Io non dico che quello che c'è, però questo è vero. La tecnologia arriva e non ci puoi fare nulla. Una volta era la stampa, adesso la stampa è stata un po' massacrata dalla tecnologia. Però devo dire che è un peccato, perché il nostro Davide Paolini, come ha premesso, non scrive guide, quindi i consigli del gastronauta o li ascoltate al sabato del villaggio, oppure dovete avere la fortuna nostra di telefonare. Lasciami dire che io la guida la facevo, ed era una guida senza voti, molto personale, ma il nostro editore assieme a me ha deciso che era ora di finirla, perché sicuramente abbiamo capito che bisogna fare qualcosa di completamente diverso, che ancora non è emerso. Comunque voglio dire un'ultima cosa: aridateci la guida dei camionisti. Ah, vero, vero, vero. Davide, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questo fine settimana, anche questo sabato del villaggio. Ci ritroviamo il prossimo sabato ancora con il consiglio del gastronauta, appunto perché quelli sono sicuramente attendibili, e li ascoltate al sabato del villaggio. Ciao Davide. Grazie, ciao Paglia. Ciao Davide, ciao. Io però faccio un appello al fatto che Davide rifaccia la guida. Okay. O anche un'app, un sito, facciamo un... Dai, dobbiamo farlo. Grazie Davide, grazie Enrico. Buona giornata a tutti. Ciao, grazie. Noi ci sentiamo tra poco.